scienziato sperimentò le microonde tra il 1930 e il 1937 fino ai primi fondamenti del radar, aprendo così la strada all'attuale mondo delle comunicazioni e della radionavigazione. Dal museo delle radio d'epoca con modelli dagli anni 20 fino agli anni 80 alle spiegazioni sugli studi condotti da Marconi, un giro nel parco antenne e anche un collegamento radio in diretta con le truppe italiane in missione all'estero. Gli studenti hanno partecipato a delle vere e proprie lezioni, visitando la stazione meteo dell'aeronautica e quella dei radioamatori. Abbiamo approfondito ciò che abbiamo studiato in classe, infatti stiamo facendo un progetto su Marconi con la lingua inglese. Inoltre molti di noi lo porteranno all'esame, quindi è interessante per tutti. Hanno visto dal vivo le cose che hanno studiato sulla carta. Il sito di Torre Chiaruccia non sarà solo un polo museale, per il futuro sono previste anche attività di ricerca. Valeria Pizzieroni, TGR Lazio. Ed è tutto per oggi, in questa edizione coordinata da Paolo Bernardi, responsabile di redazione Carlo Fontana, in regia Gianni Tola, da Maria Lanziana e Valentina Montanari. L'auguro di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio.